fasullo, adesso non mollo. Si può sempre cambiare, basta volere. Io ne ho avuto le prove, ormai non c'è scampo. Proprio adesso che piove, arriva il bel tempo. I miracoli esistono, lo vedo. Quando tutto si ferma, io non cedo. E resti ancora tu, là dove ti lasciai. So che non te ne andrai da questi giorni miei. Non saprei più stare senza la metà di me. Non so concepire un altro sogno in cui volare. Non potrei più vivere senza metà di me. Al buio mi nascondo e allora mi confondo senza te. E chi non lo comprende, ma che ci interessa? La vita è la nostra, chi vuoi che capisca? Se riusciamo a cambiare, esiste un motivo. Chi saprà giudicare che è buono o cattivo? Se di notte mi sveglio, io ti trovo. Ai destini magnetici io credo. E resti ancora tu, là dove ti lasciai. So che non te ne andrai da questi giorni miei. Saprei più stare senza la metà di me. Non so concepire un altro sogno in cui volare. Non potrei più vivere senza metà di me. Al buio mi nascondo e allora mi confondo. Non saprei più stare senza la metà di me. Non so concepire un altro sogno in cui volare. Non potrei più vivere senza metà di me. Al buio mi nascondo e allora mi confondo senza te. Senza te, che sei la metà.